avanti tu. E bello. Allora veloce c'è. E io. Ma non hai un rapporto di segnale che ho cambiato il cavo? Sì, sempre sul più 230. Capa. Ma secondo me è aumentata anche la ricezione. Perché mi sono accorto di un qualcosa di diverso. Un po' 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, qualcosa c'è di diverso. Meglio così. Ti ho visto, solo che ormai ero già più avanti, io ti ho riconosciuto dopo, lì alla Brettera stavi scendendo a piedi. Allora, mi sono fatto la... sono andata a Te Dolce e me la sono rifatta torna al ritorno, quella strada, tutta a piedi. E io ho fatto di male, Sì. Ma la fatti la balla, tu. Mi ti aspettano che sei bene il bagno, così entra a farmi anche la doccia. Capa. Vabbè, piano piano. Vabbè, Marina, no? Bravo, Volta! Le femmine, vibonene. Vibonene l'eternità, vibonene, a lavarci. No, guarda, Marina è velocissima. Se si deve lavare i capelli, allora ci mette di più. Se no è velocissima. A chi tu hai 30 anni, vibone, 50 anni. Andiamo. Sto facendo un bel bene a tu, bene, bene, proprio perfetta, una bella con la radio, molto, molto bella. Cappa, andiamo andare allora, dai. Che ci sono andare, andavano a testi. Cappa. Ho messo l'H155, ho messo. E va bene, di lusso, ottimo calfo. Tutto l'hai piazzato. Ehi, cioè, forse non andranno bene quei PL del 58, ce li ho messi, sono andati bene. E devi un po' modificare, perché allora ti faccio un esempio, il cavo quel 58 U, che è leggermente più grosso del 58 normale, devi un po' modificarlo, capito? E niente, lo devi, dove c'è la gomma, lì, un po' smussare con il taglierino. Io ho fatto così, solo un attimo mi sta chiamando Maria. Ehi, a capa, dai. 1, 2, 3. Ola, ola. Attenzione, 10, capa. Chi è avanti? Avanti, chi è? Che mi arriva 9.40 qua. Natalino, sono Cianto, buonasera. Oh, capa Natalino, buonasera. Come sto uscendo in radio con questo microfono? Una cannonata, Natali. Cara gara. L'amplificazione si sente? E c'è dove si sente? Si tiene pure la televisione. Capa. Va bene, tu. Stavo facendo questa prova qua. Capa. Vabbè, va se con 4 watt. E allora, i soliti, no? Oggi va bene, Natali. E io come ti arrivo? Ehi, fondo schiena. Già va bene, dai. Cercando qualcuno più lontano, perché ho sostituito il cavo. Ehi, capa. Ho messo l'H500... L'H500, come ti si chiama? L'H155, quello grigio. No, questo è nero. No, allora è un altro. Aspetta che te lo dico. Sì, allora si chiama John Leo H155, 50 ohm. Qua dice 24/08. E come c'è la calza rigida c'è dentro? Sì, capa, il mio è grigio, Non è nero quello che io. Vantaggi, Natali. È come il 213, dai. Anche se è più fino. Quindi dici che spingo molto di più? Ricevi bene, trasmetti bene, giustamente. Meglio dell'RG 58, No, che ci abbiamo trovato molta differenza, la verità. Prova in lontananza, noi adesso siamo troppo vicini. Mi arrivi fondo scala, ma sei di tutti i nobili. Dovrei provare con qualcuno un po' più lontano, vedere com'è. perché mi sono accorto comunque che il materiale è molto molto, c'è molta differenza. Sicuramente mi sta dando tutta un'antenna e non c'è dispersione. In effetti, dispersione ne ha meno dell'R58. Oh, vabbè, che andiamo giù 5 metri, non è che abbia tutta questa grande dispersione, no? Infatti. Se voglio vedere se è meglio, almeno in trasmissione, se mi dà qualcosa. Penso proprio di sì. Adesso vediamo qualcuno che entra da lontano. Comunque la radio è buona, no? Sì, buonissima. La mia buona è Natali. Eia, di lusso. Gabba, gabba, eia. Cercare un microfono per questa radio. E non ce l'hai il microfono? Poi gabba gabba, gliacceggia. Anda bene Meda. Ah, vai, si vedi i movimenti dalla televisione. Lo so. A rubato a coccomane. No, rammazzi su. Vabbè, e chi è più forte tra Natalino e me lì a Latte Dolce? Tu, un attimo di bianco, dai, guarda la faccia. Sì, ok, dai. Dai, che splendida giornata. Bel tempo sta facendo. Io sono chiuso qua in prigione. Così è il tempo, Natali. Cappa. Eia, eia. Hola, 10, c'è qualcuno? Ma vuoi una mucchiata? Hola? Hola, stazione 10? Stazione 10, c'è qualcuno? Che avanti? Attento 10? Hola? Che avanti? Hola? Che avanti? Che scatta la musica se è buona. Aspetta un attimo. Oh Claudio, tu sei? Ciao Claudio, Roberto sono. Oh ciao Roberto, buonasera. E questa musica? A casa Vabbè, discoteca. Eia. Ascolta, come ti arrivo? Che ho cambiato il capo. Quasi 9:30. Già va bene, sì, come sempre, sì. Sì, a voglia. Eia capo, dai, ci sentiamo dopo che qua stiamo facendo discoteca. Eia, divertiti allora, dai. Io tengo acceso, se entra qualcuno, tanto sto facendo altra roba. Ehi capo, mi dispiace. Mi dispiace capo, che non mi posso trattenere. Capito? Non ti preoccupare, fai con comodo, già ci saranno altri momenti per divertirci, dai. Ok. Ehi, anche tu c'hai lo stesso segnale, lo sai? Chi? Anche tu c'hai lo stesso segnale, c'hai. Quello mio? Quello tuo? Quello tuo, sì, 9:30. Ehi, va bene allora, non c'è problema. Cappa, cappa, dai. Vai, muchachos. Ehi, attenzione, canale 10, chi vuole entrare, avanti. Ok, dai, Robe, c'è. Dai, che qua stiamo facendo un po' di fretta a casa, dai. Non ti preoccupare tanto, dai, tanto sono qua, sto facendo altre cose, sono in QRX, ho fatto una chiamata su 10, ti vuole entrare, se no ho fatto la cosa, non ti preoccupare, dai, divertiti. Ok. Hola? Che? Avanti. Ma che non stai uscendo, chi sei? Cosa c'è, Robè? Ah, tu vedi? Sì, c'avevo il microfono a zero, dimmi. Ah, no, sentivo uno che non stava uscendo, infatti ho detto, ma chiedo, il segnale sembra avvi tu. Ah, perché altri che ne arrivano questo segnale? Vabbè, anche per un pugno qualche cosa. Sì, io che sono più forte. Chi è questo che c'è sotto? Luca Flipper. No, Luca, vabbè, ciao Luca, un altro che sta sotto, avanti chi è? Che è avanti su 10. Vabbè, riprendi tu Luca, forse non vuole entrare. Fate, sto salutando Robè, ciao Luca. Ciao Luca. Dimmi. Ma che stai dicendo? Dimmi, Eugenio, dimmi. Buonasera. Tutto a posto. Io sempre tutto a posto. A proposito, quella roba che mi hai chiesto è già venduta, non è di parte. Hai sentito? Non hai sentito. Cosa? Si è piovuto a Sassari. Tutta la mattina sta piovendo, ho smesso poco fa. Allora Eugenio, sta arrivando basso basso. Eugenio, mi ascolti? Sì, Eugenio, sempre dalle caverne. Santiago 7, ma in mezzo al correme, non riesco a capire quello che dice. Poco fa l'ho sentito più chiaro. Oggi se mi ascolti batti un colpo. Noi rividiamo che la Landrica è un pisantena del gamba. Ma non mi senti oggi? Oggi non mi senti? Ui. Ma non lo senti a Roberto? Ciao Oggi, sei Santiago 8 qua, però sanno che non mi ascolti a me. E infatti ancora io ti ho sentito dall'inizio, quando stavi parlando, ho detto, buh, chi è questo qua? Ho detto, però non hai risposto, ho detto, sanno che non mi ascolti. Dove sei oggi? Ah, ok, no, già ti tiro fuori adesso. Ma poco fa ti ho sentito forte per un attimo, poi ho detto, chi è questo che sta parlando? E poi non ti ho più sentito. Poi stavi parlando con Claudio, ho detto, buh, a me non mi ascolta. Ma sei col camper? E dove sei andato se non si può uscire? Ah, così è. Una cosa ridicola, ieri sono andato qua, a Platamona. Allora tu da Sassari puoi andare a Platamona, l'Argentiera, a Portoferro, però se ti sposti da Platamona non puoi andare a Porto Torres, se no ti mettono la contravvenzione. E da domani già si può andare a tutte le parti. E da ora, guarda, sono stanco da morire, non parliamo di te, ne sarei più stanco di me perché tu c'hai una situazione particolare, dai, non dico a te personale, diciamo dei tuoi familiari. È un casino, io sono dall'anno scorso, da febbraio dell'anno scorso che non vedo mio fratello, mie sorelle, mie cognate, mia mamma. No, io sto parlando per il fatto di tua figlia, dell'attività, quelli vabbè se non rivedi, diciamo dispiace, però è diverso che quando non lavori e non entra nei dinastici. Io mia figlia è da febbraio l'anno scorso che lavora a latte, quindi adesso vediamo domani se il tempo assiste e se lavorano, cosa vuol dire, tanto peggio di così non si può. Speriamo bene, no? O sa che c'ha mia idea che sono aumentati i contagi, signori. Stranamente non c'è manco un'influenza in giro. Tutti chi si fanno influenza sono tutti col coronavirus. È poco business, lascia perdere. Vabbè. Eugenio, mi ascolti? Devi andare in pari. Lu, stai saldando? Sì, ya. Ah, quella forella stai facendo? Sì, sto ripristinando quello là. Scarpa, riprendete pure. Ma Luca, stai vendendo quella radio, quella grande, tu ho visto. Cosa? Ho visto che stai vendendo la radio grande, grande nel senso impegnata, dai. Da quale manda? Eia. Sì. Come mai? Qualcos'altro devi prendere? No, monetizzare, robe, monetizzare per roba di casa, K. No, non è roba mia, no. Ah, non è la tua quella radio? No, non è mia, io, quello che c'ho io è il tribanda, quello è il quadribanda. Cos'è, il K2, MK2? Sì, Eia. No, già funziona, va bene. Adesso con cosa stai uscendo? Col tribanda. E che cos'è? Sempre 706. Ah, no, questo faccio averci un'altra cosa. Ma quello che usi normalmente è questo qui o quello che stai rivendendo? No, questo è questo. Cazzo, Robè, ci sono due ICOM IC706MK2 ed è il tribanda. IC706MK2G ed è il quadribanda. Lui c'ha il tribanda, quello che ha non è il suo, lo sta vendendo per conto di un altro ed è il quadribanda, l'MK2G. Sì, ho capito adesso, ma io pensavo fosse il suo, quell'altro che ne avesse due. E quattro, un altro. Va bene, ok, dai, vediamo se Eugenio ci ascolta ancora, se no riprendi tu. Ma sempre qua dove, sempre dentro una grotta, sempre qua dove, ti chiamano e non rispondi, sempre qua dove. Roberto ti ascolta, non so se ti ascolta. Sì che ti ascolta Eugenio, ma sei fermo o stai camminando? E me è teoria, trunco reale, e dove sei adesso? Hai capito. Se non alza un po' la radio, è troppo basso di radio, Eugenio ti sento a momenti bene, a molti momenti basso di radio, o te la avvicino un po' più alla bocca, che non hai compreso quello che hai detto. Il segnale è 7-8, però la radio, vero, neanche si sente. Lipidri ragazzi, Robè, ma lo senti? Sta facendo un'altra per non farsi trovare, capito? In mezzo alla campagna, lì alla cantoniera dei Pidriati, tu non sei però torrese, quindi non lo sai dov'è. Ah, questo è di nascosto, adesso sia che l'abbiamo ascoltato adesso. No. Dimmi, Lu. Scusa, che radio stai usando? Il 44. Se non riesci a sentire, io lo sento, sarà 3.5-4 di radio quasi. No, io lo sento di segnale, lo sento basso di modulazione, basso basso, cioè il QRM è alto, lui arriva a 7 qua di segnale. Ah, per il QRM, sicuramente per quello. No, io ne ho 0 di QRM, così che... Adesso c'ho uno neanche di QRM, io col Galaxy, e tu vai 3.4 4.40. Già lo so, questo lo fare tira tanto. L'altro invece, quello più grande, 0, il QRM è 0. Questo qua invece ne sente di più, è più rumoroso. Questo è più silenzioso ancora del 4.40, guarda. Sto Galaxy è una favola. No, non una favola, una favoletta. C'è anche, ne stanno vedendo uno se ti interessa a me, un Galaxy Turbo, dice 120 watt. 400 euro lo stavo vendendo questo. Di là te ne sia, non c'è bisogno di 120 watt. Ne posso avere con questa radio anche un kilowatt, ma non mi interessa, va bene 8 watt e me ne avanzano. No, ma quello che mi fa ridere quando dicono queste potenze, in di sotto 100 watt, non che non ci metti un amplificatore dentro, ma sarebbe un po' complicato metterci un amplificatore per i disturbi e tutto quanto. Ah, lascia perdere. Dobbiamo bruciare via un rudo a fasciare la radio. È così bella, così semplice, normale, originale, cosa ti devi mettere a modificare? Già va bene. Vediamo se Eugenio ha bucato la gomma. Dove sei? Io ho capito. Se la so sui Pidriazzi, non so cui sotto io, mentre Roberto. Va bene. Ok. Vabbè, finito, hai lupo. Quindi, non mettiamo messo a parte anche quella da trattore, così domani te lo passo. Va bene, sì, mi sfido, stavo ricontrollando col tessere se avevo saldato tutti i giusti, che non ho fatto altro che ricopiare dalla parte opposta del microfono al nuovo spinotto, dai, va bene. Sì, intanto sono uguale, non giri da una parte o dall'altra, sono uguale, quindi hai fatto bene, meno tempo hai perso. Ho messo a parte quella adattatore che ti ho detto, così domani mattina poi quando sono in zona te lo passo, capito? Chiama Claudio? Ciao Danilo Plutto, avanti Claudio per Danilo Plutto, dovresti sentirlo a me 9.40. Il 9.40 è che fa vedere la vicina Casadoia. Ciao Danilo Plutto. Pensavo che ti eri dimenticato della 27. Un bel basso sta arrivando da me, non so se Roberto ti sente, lo senti a Danilo Plutto? Sì, ma lo sento male, c'ho il QRM alto qua, è quello, non riesco a capire quello che dice. Ma non è Danilo, il solito Danilo, è un altro questo. Questo è Danilo Plutto, quello là è Danilo e boh. È quello che ti stavo dicendo, perché dalla voce non mi sembrava lui. Ma la zona di giù dove c'è Luca, per arrivare così forte a Luca, qua mi arriva in mezzo al QRM. Sicuramente è vicino a Luca, anche qua sta arrivando a livello a Giulio. Cosa ha detto lui? Aspetta che stavo rispondendo a un messaggio. Ehi, avanti dai. Break. Allora, se non ho capito male, Danilo ha detto che ha un'antenna piccolina, ma stavo rispondendo a un messaggio su WhatsApp all'altro Danilo. Ehi, ma già ti sentiamo, Danilo, io ho voglia. Sei 9.40, no? Ehi, qua stai arrivando un bel basso, Fai entrare il break, Roberto, manca un ascolto. Ehi, avanti Gianni. Ehi, buonasera a tutti, dai. Doppio rumore. Però questo Danilo Pluto con Roberto da questa parte, comunque ciao Gianni, ti sento, il segnale è abbastanza discreto, però la radio sale e scende, non ho capito, ma sei in movimento o sei fisso? Sei cazzicato, Roberto, puoi spostare al 20 un attimo? Ehi, Danilo, ehi, ancora mi ascolti? Passino di radio! Che va bene, strano, ma no, sta andando bene questa cosa. Luca, Danilo, dove ti trovi? Come mi ascolti via per Danilo? Perché mi stavo preoccupando, che di solito esce bene questo microfono. Ciao, Ciao, ciao Eugenio, ci sentiamo, buona serata. Mi saluto anche io, scusa, mi devo fermare. Niente, a presto, buona serata. Ciao, ciao anche a te, ci sentiamo, buona serata e buon rientro, dai. Hola, attenzione, canale 10. Hola. Chiama, Ruggero. Attenzione Luca, mi ascolti? Se non ti ascolto io allora siamo messi male. Caro capo. Allora, tu lo sai che cosa potrebbe essere quando l'antenna ha delle cariche elettrostatiche? Ma perché la tua elettrostatica ti dà? K. Sì. Cariche elettrostatiche. Perché quella lì è vero, quella lì non c'ha l'anello in punta. Non c'ha l'anello? C'ha quel morsetto dove si attacca il cavo che c'è centrale. Ma io se bisogna non entrarci il filo dentro, capito? Non serve ad altro. E cos'è questo anello? Lì devi scendere l'antenna, ho già. Io le mie perché glielo faccio l'anello? Proprio per quel motivo lì, perché sennò fa elettrostatica. Se la prima stava attaccando il piede sotto la scintilla. Cazzo, io credo. Già la credo, gialla, anche se sono cortocircuitate non c'entra niente quello, ho capito già. Lo so. Sì, ma infatti se mi rompo le scatole cambio l'antenna e buonanotte. Sto sempre a tribolare così, mamma mia. Ho misurato cavo, fatto, stavo impazzendo. Ma lo sai Galassi cosa ci aveva? Una cosa da ridere. Hai visto quel filo che attacca dove si attacca il PL, quello centrale? È un filo tipo Regi 58, ma fino, come se tu mettessi un filo solo delle Regi 58. Si era staccato quello. Ah, dall'interno della radio? All'interno, l'ho aperta per vedere se erano i finali, perché non dava continuità. L'ho aperta e ho trovato questo filo staccato, l'ho risaldato, la radio è partita tranquillamente. Questo. Sì che sei già da un po' che la usi, così che sta andando bene. Sì, quello lì sì, è quel problema me lo sta dando l'antenna adesso, che non mi sta più convincendo con l'antenna, mi pare che venire a capo e mi metto un Avenon di quella leggera. Io ne sto sempre spedendo, anzi, stanno sempre facendomi complimenti su Facebook, la gente che si trovano sempre bene. Sì, lo so, ma il problema è che tu mandi solo il cavo, io voglio l'antenna completa, a me non mi piace solo il cavo così, dal finale, da fare, comprare l'antenna, questo e quell'altro. Io voglio l'antenna completa. L'antenna completa? C'è la struttura oggi, cosa te ne affutti? Io ti faccio l'antenna o se no ti modifichi quella, capito? Ti modifichi quella e hai risolto il problema, ne accendi, gli aggiungi quell'anello lì, capito? Con un cavo da 4 e si è a posto. L'anello dove va collegato? Cosa? Dove va collegato questa regola? Al polo centrale? E allora? Quello che esce, togli quella boccola che c'ha con la brugolina, capito? E li saldi un pezzo di filo che gli fai un anello, capito? Di almeno 3 cm e mezzo di diametro e lo risaldi di sotto. Basta, non devi fare niente di che. Ma se c'è scritto di non mettere ferro dopo la carica, di non mettere altre cose in ferro e metallo, eccetera, eccetera, buh. No, ma tu devi fare a capo di uscita. Ho capito. Non devi fare sotto, no. Al capo che ti esce, togli quella boccoletta e fai così, e hai risolto. E mettendo lì un cavo che va a terra? No, non c'entra niente già, quello non li fa niente. Non la lascia a terra? No, non fa. No, non fa. Non fa. No, almeno me ne dà scosso, mai mi ha fatto questo problema. Se no si sarebbero già lamentati anche gli altri. Ma io non ho detto che sono le tue, ho detto che è la mia, che è così. dopo, vabbè, chi lo sapeva. Già, mi stavo già prendendo una mano, va cazzo, non me la cipigliata, perché è troppo pesante, non ne vogliono qua roba pesante, stanno rompendo le balle, poi quando ti vedono salendo troppe volte sul tetto, poi ti dicono cose, capito? Perché lì tu hai buttato, se non sbaglio. Mettete una seta radiale così non vedono robe ingombranti. No, il problema è che sono saliti sul tetto e sono entrati negli artici, hanno rubato, capito? Però vabbè, non c'entro un cavolo io, sono entrati dalla finestrella dove c'è la cosa, il motore dell'ascensore, sono entrati da lì, hanno tagliato le gratte e sono passati sul tetto. Dal tetto sono andati negli artici. Tutto loro hanno rubato, loro soldi e quanto c'era. Di un insegnante che tra l'altro gliel'hanno fatto di mattina, perché lì la mattina è uscita, era tutto tranquillo. Sono andati di mattina quando lì è andata a scuola, all'una e mezza è tornata e l'ha trovato così. Perché ti studiano, capito? Purtroppo è così. Già, sai, quello che non entra quando si studiano alla perfezione, orari, di andata e di ritorno. E c'hanno sempre la sentinella. E allora c'è sempre quello, c'è un periodo che c'era sempre questa ziga che stava seduta, visto quelle gradinate che sono di fronte a casa, stava seduta in quelle gradinate sempre controllando i palazzi. E gli ho detto, ma tu qua cosa ci fai sempre? Abito qua, ma cosa abiti qua? E dove abiti? In quel portone lì, come ti chiami? Dimmi il cognome. E si è messa a ridere. E allora? Entra a colpo sicuro. E poi fanno questi segni, fanno dei segni, capito? Nelle cassette delle poste. E li fanno anche vicino ai campanelli. Li fanno anche vicino ai campanelli, io già, vicino alle porte proprio. Ma tu poi beccati di avevi quelli che ti avevano fregato gli apparecchi? Ma sono andati due volte, non una, due. Due volte, cazzarola. È una cosa allucinante. Ma da me probabilmente era lo stesso che era entrato da coso, nel garage di Maurizio, capito? Solo che chi doveva la telecamera e ha ripreso tutta la scena quando è entrato questo qua, capito? Perché la telecamera, come ho visto l'ombra, l'intrusione, ha iniziato a registrare, ha portato il video in questura ed è stato pizzicato, sicuramente era lo stesso, perché ha girato in quel periodo lì. E a lui addirittura gli hanno scaricato una bicicletta che non era la sua, deve se ce ne vanno in macchina, incombrava, gli hanno messa nel garage. E gli hanno attaccato tutti gli apparecchi che si stava appena trasferendo lì. Adesso non abita più lì. No, non c'è più. E la bicicletta di quello a fianco, del garage a fianco. Capito? Qualcosa non l'ha più ritrovata, però l'hanno impizzicata romanco, e vedi a volte le telecamere. Ma lui ha detto che siccome lo fa per lavoro, gli era avanzata questa telecamera, adesso le piazza in garage e le ha messe lì, ma proprio per gioco, cioè, l'ho fatto così proprio per... sembrava che me lo sentissi. Però vedi, intanto non ti comporta niente una telecamera, sta lì, nel caso che si accende, capito? Sembra una cazzata però, certo magari non riesce a recuperare tutto, oppure se raccanta e dice a chi l'ha data e riesce a recuperare, no io non ho recuperato mai niente. No, lui ha recuperato tutto, tu pensa che la roba non l'aveva ancora piazzata tutta, c'erano un medio apparecchiature, te l'ho rubato tutto. L'ho tutta recuperata, era un casalzino a me mi aveva detto di no, qualcosina non era riuscito a recuperarla, magari poi col tempo è riuscito a recuperarla. A me mi ha detto che praticamente in un giro di poche ore li hanno beccati, capito? Un giro di poche ore perché era conosciuto dalla polizia. Allora poi il giorno prima Alghero facendo la stessa cosa. Si fanno ricchi da queste cose. Cazzo, si vedeva con gli apparecchi, magari prendeva 100 euro l'uno, non sapeva il valore. Sì, perché loro vedono queste cose, probabilmente apparecchi così, non sa neanche cosa so, però già riescono a smerciarli, ma la sorte, già c'erano il contatto. Sì, già li smerciano. Non deve essere gente di lì, non deve essere gente che sta lì a latte dolce, perché se no però magari conoscendoti non penso che ti facessi un torto del genere. No, infatti, no, non l'ho mai vista lì. Poi ripeto, non so se è lui, ma in quel periodo è successo tutto. Sì, c'era qualche organizzazione che si organizza nel cercare nelle case. E tu pensi che Maurizio mi aveva dato un tubo in resina, no? Mi aveva regalato lì dal garage suo. E quando dopo un po' di tempo che erano entrati da lui, gli avevo fatto un video. In questo video inquadrato c'era il tubo che mi aveva regalato lui, appunto. Mi manda il messaggio: ma lui, ma dimmi una cosa, ma quel tubo che hai a casa tua, chi te l'ha dato? Perché lui pensava, capito? Perché aveva collegato il tutto. Quel tubo lì, nel mio video dopo, cazzo, ha fatto, capito, 2+2. E quindi era lui sicuramente. E me l'aveva dato lui stesso, Maurizio, capito? Me ne aveva dato due di quei tubi lì, però non si ricordava. Poi gli hanno fatto il furto e sicuramente aveva pensato che a me me l'avesse dato quello che gli aveva rubati a lui. Pure per i 112 passati. Beh, infatti. Ragazzi, tu non te la metti, mi hai dato tutto quando sono giunto in garage. Non mi ricordo perché ero andato, forse per quello proprio, in garage da lui. Perché sapeva che stavo facendo le antenne all'epoca e stavo usando i pezzi appunto di tubi da mettere sotto, no? E mi aveva detto, guarda, forse che ce li ho in garage, di quei tubi lì, belli grossi, spessore mezzo centimetro, e 3 metri sembra che era. Ero andato in macchina, me li avevo messi, me li avevo caricati. E infatti dopo poco tempo gli avevo fatto il furto a lui, te lo immagini? Oh, yeah. Vabbè, comunque sono andati a colpo sicuro anche a casa tua, quando andati da qua suocera sicuramente ne hanno approfittato. Se sono entrati, pensa, sono entrati in quella di fronte a me, no? Di fronte a me sono entrati, non escono mai, difficilmente che escono questi, ma difficile. È capitato, sono andati al Ghiero perché la madre doveva fare una visita, la mattina stessa sono entrati a casa sua, l'hanno infurato di tutto di più. Sicuramente sono tentate le persone. Cazzo, capito, sono tentate, ma non pensi che ti possa sentire quello di fronte, come era successo a me, no. Cioè, allucinante, io la notte, perché dormivo da mia suocera, la notte sono entrati qua, io me ne sono accorto di domani mattina e lì loro non hanno sentito niente. Come? Non ho sentito niente quando sono entrati da loro. Sì, sono specializzati, fanno piano, fanno rumore. Adesso magari sanno come fare a aprire le porte, ma tu blindata, non è? Io no, ma i vicini avevano la porta blindata, eppure sono riusciti a aprirla. Cazzo, come che se avessero un passepartout, capito? Solo che da loro sono entrati di mattina, già, di mattina. Ah, adesso te la raccontura. Mia nipote, quando era più piccola, non adesso, lavorava a guardaroba nella discoteca di Usi, come si chiama, a Blue Star, al guardaroba. Quindi rientrava la mattina presto, verso le 4:30-5, si metteva a letto per riposare. E il cane Giuri, il suo pincher, andava e tornava, e la abbaiava e la tirava. E lei ha detto, dai Giuri, fai da bravo, lasciami dormire che sono stanca. Alla fine, cazzo, si è alzata, perché ve lo vedevo insistente, cazzo, si è trovato una riga dentro casa con un coltellaccio da cucina. Però il cane ha preso, ha cominciato a morsicarla questa zingara nelle gambe, e questa ha preso, se n'è scappata, lì ha detto al ladro, nelle scale. E questa zingara si è messa a correre e è scappata. Poi ha chiamato i carabinieri per raccontare la storia. Nel mentre questa zingara non si è andata per persa, è andata nel portone vicino, stava scassinando un'altra porta. Quando i carabinieri sono arrivati, c'era gente che l'ha vista attraversando e gli ha detto che era quel portone, sono saliti su e l'hanno sciappata. Che aveva già scassinato, già aperto la porta e se ne è entrata dentro l'altra casa. Sì, perché secondo me hanno anche queste, secondo me chiamano le regole nella loro comunità, e devono tornare a casa con della refurtiva, le piace o no, secondo me, perché sai, lì hanno queste cose qua, e lì che per forza doveva entrare da un'altra parte. Facci vedere. Ehi, vabbè, ci sentiamo dopo, che qua si balla. Yuhuhu! ci ho fatto affare a dargli mezzo litro di moscato oggi, ma che me l'ha fatto un po'? E tu che dici, oh, stranito? Cazzo, non mi è rimasta salsiccia da dare, gli ho detto, mia tu, per farmi perdonare ti do mezzo litro di moscato, ma era così avvato, vabbè da come ti sei ridotto. Ma di quel mirto ancora ne? Mirto no. Ricordi la potenza più tu, se poi ci c'è da... Fatto in casa quello. No, c'ho dell'acqua vite molto buona. No, a me l'acqua vite non piace, il sapore secco non mi piace, mi piace la roba più dolce. Cavagava, Antonio! Cuglia! E vabbè, penso di fare. Cosa vuoi fare? Ci vorrebbe l'allarme come vanno a aprire, risuona, così se ne scappa. Ma infatti, guarda, ci sono quelle dei briccome, che cucciano di zivolo, capito? Se non sanno dov'è, tranquillo, che quando passa, capito? Di quelle altre assurde. Che quando basta si può assumare. O se no come si faceva anticamente, si metteva un interruttore esterno, si attaccava la corrente alla porta, come ti andava a toccare e rimane attaccato. Sì, beh, quello... Però poi fotti pure a te, anche l'allarme, poi io avevo messo l'allarme, così che, però ogni tanto mi futti, capito? Quindi devi dire che passo dritto, che da vede il movimento, si muove dopo un po', ti dà il tempo di disattivarlo, però poi si mette a suonare. Cazzo, mi fate sogno. E svegliati di quanti. Non so, ti puoi dimenticare, c'è l'interruttore, cosa c'è? Qualche cosa per spegnere da fuori? No, ma te raccomando. Pappagallo. Fatti. Conviene così perché e mi basta a un certo punto. Io qua già c'ho il cane che mi avvisa anche quando c'è gente che va nel pianerottolo, che aprono la porta e cose. Abbaia, guarda lo spioncino se non è roba di fuori, no? Non apro nemmeno. Ma se è roba di fuori apro con il cane slegato. Non fai bene. Ce l'hanno, ce l'abbiamo 1, 2, 3, in 4 ce l'abbiamo il cane, primo piano, quarto piano e quinto piano, in 3 ce l'abbiamo. Ma davvero? È piccolino però il mio, non è razza grande. Cos'è? Yorkshire? E la via di mezzo, aspetta, mando la foto. Sono 4 i cani. Ma sei esisto tu? Sono 5, mi sono sbagliato. Danilo, tu sei, buonasera. Sì, ciao, buonasera a tu. Cappa, ciao Dani. E allora? Un giretto mi sto facendo. Sennò... prima così non sto facendo. Io non uscire fuori da Sassari, perché sennò si fuggi. Sono già fuori Sassari io. Del comune di Sassari sempre. Ah, quello sì. Sempre Sassari. No. Vabbè, interessante che sei nel comune. Se puoi dire vai a Porto Torre se sei già fuori Sassari, sei fuori di comune. No, già lo so, già lo so. Comunque lui, i cani sono primo piano, secondo piano, quarto piano e quinto piano. Ah, è vero, sì, Rossana, va bene, lo dimentichi. Aspetta, dici da scendere la femmina di rubarazzo, lo cane femmina di rubarazzo. Ma c'è un comodino, poi io sono aggiuntato. Hai un altro comodino, hai visto? Oh, è un comodino. Ma lei è un soprammobile. Che radio stai usando? 607? Ehi, è 607, sì. A quanto ti sto arrivando io di segnale? 950. Ah, perché mi stai arrivando anche tu a 950 fatta. Siamo vicini. Siamo vicini, c'è cosa Roberto e Claudio sul 20, si sono spostati, No, ma non la giugana di andare da una parte all'altra. No, ci metto qua, guardo cosa mi posso inventare. E rimango in ascolto. Siamo andato, mi sembra un video, una foto, KK, e intanto anche io sono qui. Sto preparando. Un video, una foto. Lei che mi ha mandato un audio e boom. No. Alle 6 mi ha mandato un messaggio audio. Oltre alle 6 non c'è nessun video e nessuna foto. E beh, non c'è più nessuno. Io sono sempre qua. E allora lì, ma stai camminando, c'è movimento? No, sono fermo, in base. Ah, KK. Manda bene. Già va bene, già va bene. Che cosa stai usando adesso come apparecchio? Il 7000. Esce bene, ma con l'input, con le BC60? No, l'originale, c'ho l'HM151, l'originale. Ah, certo. E magari lì col K, con le BC60 spinge di più, comunque esce bene anche così. Beh, un amico mi deve fare il cablaggio. Però mi metto la prolunghetta che fa da Kenwood a Icon. Me lo faccio così. O se no magari metti che devo vendere le MC60 ed è un casino riprendere, tagliare tutto e rimettere il connettore a zero. Invece ti faccio lo spinotto femmina, Kenwood, attacco MC60. Sì, infatti. Va bene. Sono anche su internet, se vai a vedere magari ce ne sono anche. Ah, già mi sono sbagliato, attacco Icom, da Kenwood a Icom. No, già ce l'ho un sito, costa 14 euro quel capo. L'avevo fatto vedere anche a Claudio. Però, no, ma lo voglio costruire io. Almeno so, inizio già a maneggiare qualcosa qua. Di mio. Brocolo. Fai bene. Perché no? Se uno poi deve imparare, impara. Sì, quello sì. Ma già qualcosina già lo so fare. Solo che non c'ho la clipatrice. Invece questo amico c'ha la clipatrice, ha detto che me lo fa direttamente lui. Buonasera. Ciao Antonino. Ciao, ho sentito. Compagni chi sei? Dove sto Nino? Vieni da Nino e c'era anche Luca. C'era Luca. Ciao Danilo, ciao Luca. Chi è che non c'era la clipatrice? Tutti, anch'io. Ma quella per RG45? Io c'ho quella per i telefoni, e poi quello internet. No, questo è quello dell'attacco Ethernet, RG45. Attacco internet, come dicevo io. Ah, ce l'hai anche tu? Adesso ce l'ho con l'arancione. Ce l'ho da molto, ma io faccio questi lavori, quindi. Ah, ce la usi per lavoro è un'altra cosa, come questo amico mio. Me lo fa direttamente lui, lo spinotto. Devo andare a prendere solamente il connettore femmina del cable, quella autopin. Sì, adesso è tutto facile perché i fili sono colorati, anche lo spinotto è colorato, non puoi mai sbagliare, capito? Metto più patrizia, schiacci a posto. Certo, ma se c'ero anch'io, Dani, tanto ti ho aggiunto che c'ero anch'io la clipatrice, io come me l'ho fatto, secondo te, l'attacco? Dall'MC60 a 706, e già usai. Ancora non tiravi il biglietto sul capo. Ma tu vuoi un bacio? Io bacio a te non te ne do. Io prima ti ho anche detto senza lingua, poi vediamo, tu no, con la lingua. No, lui, già me lo fa lui, almeno è già di esperienza. No, non voglio arruinare nessuna radio. Anche la mia, non è funzionante, mi ha giocato a 6V. Che aveva capito, Tony, come quando fa la visita alla prostata, subito lui unge, si mette il guanto. Cazzo, prima iniziamo con un bacino, poi vediamo. Sono sempre preliminari prima. Allora invece no, subito devo staccare un dito. Aspetta che stavano parlando. Avanti. C'era un segnale basso che stava parlando. No, sicuramente qualcuno che quasi è vicino alla frequenza nostra. Vabbè, stavamo dicendo del capo. No, lui, me lo faccio fare almeno come questi qua che sembrano originali. Che il capo sparisce dentro il connettore, sia in uno che nell'altro. E me lo faccio una piccola prolunghetta, almeno non si vede niente. Stai a capo a capo adesso, mi assento un po'. Ma ti assenti, cioè ti metti in un angolo? Mi metto in castigo, vedi. No, sono sul 20 se non sbaglio. No, oh, non aggiungano la scillami, adesso mi faccio qualcosa. Magari mi colpisco qualche scheda. Faccio bene. E YouTube, no, oggi ho visto un video di uno che ci ha messo quei due pannelli amorfi, ma per carità. Oh, comunque con l'MPTT non è che ci abbia assai mito. La stessa cosa mi dà di guadagno. No, non cambia niente. È impossibile. A me, io stamattina ho controllato appositamente, nonostante era nuvoloso, non ci ho messo neanche un'ora. Ed era. Allora sono andato ed era all'85%. E sono uscito dopo un'ora ed era già carica. Hai zitta, ma c'è lo stesso consumo che ho io. No, cosa c'entra il consumo, Dani? Stiamo parlando di quanto tempo ci metti a caricare. Se tu vai a consumare normale, no, come fai a vederlo? Tu non usare niente, lascia caricare e guarda il tempo che ci mette con uno e poi il tempo che ci mette con l'altro, naturalmente stesse condizioni meteo. Eia, ma tu carichi in fretta perché c'hai meno consumo di me. Io le luci ci le ho tutte la notte accese, ce le ho dalle 6 alle 8 del mattino accese, cioè 14 ore accese sono le luci che ho io, e sono 15, 30, 60 watt di luce, e per 14 devi farti questo calcolo e sei quanto ampere ho consumato. In guadagno a recuperarmi tutta la notte questa corrente, non ce la fai in un paio d'ore a caricarmele subito le batterie. Infatti cosa ti sto dicendo? Guarda quanto sei tot 70%, 50%, guarda da 50% andare al 100% quanto tempo ci mette, come ho fatto io mi ho fatto questo calcolo qua, considerando il meteo, nuvoloso, sole e quella roba lì, capito? No, a me me la carica in un'ora, all'85% in un'ora già carica, capito? Nuvoloso, stiamo parlando nuvoloso con le MPPT. Dall'85% al 100%, cioè mai il 15% da ricaricare. Io ho 20, a volte scende anche a 75%, quindi c'ho il 25% che deve andare a caricare. Vabbè, se non ti mette un'ora ti metterà un'ora e mezzo, capito? Però guarda sempre col meteo, ma solitamente no, già è molto più veloce e vediti come quello che ho preso io, quell'ultimo che ho preso io, se no funziona veramente bene, ottimamente bene. KK, vabbè, ciao, dopo. Oh, tanto i pannelli li dovrei sempre spostare perché c'è un punto che verso mezzogiorno le 2 prende l'albero e mi fa ombra sui pannelli, quindi devo spostarmeli, devo portarli più su. Allora, dai, ci sentiamo più tardi. Io tagliare gli alberi fai prima, ciao. No, sono i miei liguri, sono da più già tagliati, spuntati gli alberi. Ma lo sai che può cadere un bidone di varecchina sotto, o di gasolio. Gruppo si è attaccato, e gli altri avvi buona leva a me. Vabbè, dai, sto andando a farmi un giro al 20. Se ci vediamo lì tu. Eia. Luca! Che venga veloce! Luca! Guarda tu! Guarda a vedere, l'ho montato, no? Com'è? Bella, va bene, un attimo tu, un secondo, dammi un secondo. Intanto io sto smontando, vai! Hola! Burra bella! Bella, almeno tu, fatto vai! Che sto smontando questi cazzo di stativi. Sì? Sto smontando gli stativi. Tu non si capisce a cosa si dice, lassativi. Maga lassativi, gli stativi. E cosa sono gli stativi? Chi ci utilizza meglio di voi i piedi salli, si chiamano stativi. fai. Capa, capito, sopra 9,50 sono. Sì. Già va bene allora, dai. 9,55 modulati. Ma ha aumentato, ma? 9,55 modulati, sì. Allora qualcosa già l'ha aumentata. Poco poco. Porca miseria, cavolo, ho preso la cosa, mamma mia. La scala in pieno ho preso pochi minuti fa, salendo qua. Ma allora sei salito sul tetto a cambiare capo, tu? Cappa, te l'avevo detto grubunia. Brava tu, no? Ti sei perso l'animo. Sono cagato pigliato da cara e sono cattato sopra. Cucù. Scusate che ora le 20, che volevo dire cosa Roberto, poi è entrato Tino a fare delle prove e mi sono trattenuto. Buonasera a tutti. Ehi, cosa scusi, buonasera. Claudio, ho aumentato qualcosa, ho sostituito il cavo e ho messo il 155. Assoluto io. Antonio sempre faccio il miglioramento, la prova, schiaccia, sei sempre con la stessa radio, sempre la stessa potenza. Due, due, tre, prova gatto. Aspetta, aspetta che te lo do giusto col... che poi da stasera non c'è più quella radio, ne approfitto. Che domani devo spedirla. Aspetta che il commutore al 140 un attimino, perché così te lo do preciso, preciso. No, vabbè, io ti stavo chiamando, comunque. Infatti, se non mi rispondi, ti ho detto passa al 10. Lo so, ma senza microfono uno non può parlare. Almeno mi potevi dare la voce, ti sentivo. Vabbè, non so chi c'è qua. C'è Flipper e Antonio. Aspetta che cambio radio, devo dare un controllo ad Antonio che mi sembra che abbia aumentato il segnale. Capa, vediamo un po', come che ci abbia 213 attaccato, Vabbè, tu considera che tu ne hai poco di capo, mi... consigli di mettere il capo, non è che hai capito tutta questa perdita, niente. Ma praticamente adesso la potenza la sto buttando in antenna, non ho più perdita a quanto è. Cioè, se sono per dire, cosa sono, 20 watt, 20 watt sono tutti in antenna, non sono più come, magari, cioè, quello là perdeva appena appena, però questi qua, come che abbiamo l'antenna diretta, capito? Quando io dico le cose, gente non ci crede, non posso, allora, eri 9,20 di segnale prima, stai attento, 9,58, 9 più 20. Adesso sei 9,25 di segnale fisso e vai quasi a 9,30 modulati. Allucinante. La mazza ghinini in varia. Come dire tanto quando io dico che 9,58 è un cavo al cazzo. Scusate il termine. È un cavo, non serve a niente. Allucinante, sì. 9,25, segnale più alto che ricevo. Più il segnale più alto che ricevo. Luca, assieme a Luca, Flipper, 9,25, avete lo stesso segnale adesso. Capa, anche da Luca ha cambiato molto, sono 9,55 sono, prima era 9,50. Lo so. No, chi stava cercando non capisco niente. Lui, se stavi provando tu, avete lo stesso segnale adesso. Prima eri tu 25, lui 20, adesso siete tutti e due 25. Capito? Ottimo segnale Antonio, il cavo è quello che comanda tutto, è inutile che stiamo sempre a dire le stesse cose. Quando uno ha un buon impianto d'antenna non c'è niente da fare, ricezione e trasmissione cambiano. Guarda, io ti porto un paragone, il 213 che lui era buonissimo, il migliore che c'era di quella serie lì. Quando io sono passato all'H1000, fantastico, proprio ha cambiato dal giorno alla notte sia la ricezione che la trasmissione. No, Claudio, ero io, ma tieni conto che sono un bel dietro io. No, non ce la fai, hai lo stesso segnale anche tu, più o meno siete lì, però non si capisce niente. Con la differenza, io sono qualche chilometro più indietro. Ma io ti vedo, non vanno da là. Quando fate chiedete contro da me, io vi vedo tutti, anche se siete indietro o in avanti. Però ripeto, Antonio c'ha veramente un ottimo segnale adesso. Complimenti. Ottimo segnale alla grande. Lì come imbaglia, il tuo pizzio, il gatto. Sì, ma quello che voglio dire io, che Antonio è in mezzo tra me e te. Sì. Poi bisogna vedere quanti vatti stai usando tu, avanti. Sì, ma io sono sempre più indietro di lui. Lo so, effettivamente sì. Prova con Luca a vedere. Prova con Antonio a vedere. Poco, è aumentato però. Ma la cerca Luca non ce la fai, no? Allora era Tino che stava provando. No, Luca non ce la fai, oh. Ma la cerca, ragazzi, Luca è 25 con picchi a 30 proprio. E sul 30 pieno pieno. Tu sul 30 non ci arrivi Antonio. Vabbè, per fare Luca, però Luca c'è un altro tipo di antenna, un altro impianto. Io non ho provato, Non hai provato tutti? No. La carica che provai la sua modulare Antonio. Stava parlando Luca e Antonio, cosa mette Antonio? Capo, no, volevo fare, no, ho fatto le prove, comunque ha migliorato tantissimo, ha migliorato col cioè, con questo cavo mi sto accorgendo, è proprio che è grosso nella nel coso, chi depini i vini, c'è una bella differenza, anche saldandolo, cavolo, chi è grosso, chi sono, cioè chi c'è grosso, chi no, non è così. È un po' pure un cavo serio, te l'ho detto, l'HC55, mi sembra che l'abbia detto anche Fabrizio l'altra volta, mi pare che è entrato proprio a parlare di quel tipo di cavo, quello è buono. Quello è un bellissimo cavo. E come mai lui avevi una matassa tua ancora? Io ce l'ho la matassa perché con questo faccio le antenne, Ah, vabbè, Antonio, quanto mi ha dato? 10 metri? 6 metri gliene ha dato. Poco, io non ne ho di quello. Io ho qualche spezzone di H1000, ma è più grosso di quello lì, ma va bene per Antonio, capito? Provati a vedere se lo passi ora, Antonio. Dino! Dino, guarda vedere se mi passi. Prova Antonio. 1, 2, 3, prova. Antonio. Lì siete. Siete lì tutti e due, Sentito appena di più a Dino, ma siete lì Antonio. Ma non ti preoccupare perché è veramente un ottimo segnale. Adesso provo col maracchino, provo a vedere com'è. Non parlare Antonio. Parla però. Ehi, adesso parlando già. Adesso provo con l'87 a vedere com'è. Sì. Sì cosa? Senti, parla Antonio. Non eri tu? Tu eri quando hai detto parla Antonio. Eia! Voglio, sento più perché a lui. Oh, cazzo, c'è un ottimo segnale. Ha cominciato da 9:10, 9:15, 9:20, adesso 9:25. Oh, iniziamo a preoccuparmi. Magari a Luca non lo passo perché è più forte. Prova Luca. Prova, 1, 2, 3, prova, microfono, solita radio, K, ciao. No, anche Luca è... Luca, non so perché, ma cazzo, va un signorone, una cosa allucinante. Ma c'è anche il processore acceso, Claudio. Cosa c'è, il processore? Io penso di sì. No, io sono un baracchino, sono io, un Lincoln. No, non tu, Luca, c'ha il processore acceso. Col processore mi spingi anche a me. Ehi, guarda Valere, qua, adesso sono il baracchino. 9, stai toccando la punta di 9:30. Capo, sono con l'87, sono,